Andiamo a passo indietro, iniziamo da domenica in questa seconda parte della rubrica In Scena su Radio Città Fujiko al Breakfast Club. Quindi è domenica 21 luglio alle ore 21. San Francesco Estate, una rassegna che appunto vede la cura di ERT e che sarà fino al 28 luglio, venerdì e sabato domenica. Quindi per quanto riguarda la penultima domenica nella rassegna che vi ho appena presentato, il collettivo Zoo Palco vocifera Patrizia Vicinelli. È un originale omaggio, la formula è quella del radiodramma alla poetessa bolognese Patrizia Vicinelli, a più di 30 anni dalla scomparsa. Ne avremo approfondimento insieme a Eugenia Galli del collettivo Zoo Palco per quanto riguarda quello che sarà motivo di fine weekend. Beh, intanto pensiamo a goderci il weekend, però per una bella serata di domenica, indubbiamente avvicinarsi a questa autrice con una formula originale è indubbiamente un valore aggiunto. Sentiamo la conversazione con Eugenia Galli di Zoo Palco. Domenica 21 luglio per la rassegna San Francesco Estate alle ore 21 conclude il weekend collettivo Zoo Palco. Con noi Eugenia Galli, alla quale do il buongiorno. Buongiorno Eugenia. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Allora, una formula particolare e un originale omaggio in forma di radiodramma alla poetessa bolognese Patrizia Vicinelli. Com'è nata questa idea e perché la scelta di questa modalità? Allora, l'idea nasce dal duo San Giorgio Cibernetico, che è formato da Matteo Zoppi, che è un performer fiorentino di base a Berlino adesso, e Michael Nannini, che è un musicista elettronico. Questo spettacolo in realtà nasce qualche anno fa, nasce appunto in forma di radiodramma, ma poi prende anche una forma performativa da palco per il collettivo Fumofonico di Firenze. E in questa occasione avrà anche tutto un apparato invece di live visuals che è pensato appositamente per questo appuntamento in piazza San Francesco, realizzato da Martina Stella, che l'anno scorso, sempre per noi, per il collettivo Zoo Palco, aveva preparato un font dedicato proprio alla poeta Patrizia Vicinelli, che si chiama Armatura e che prende, diciamo, le mosse da un lato dai segni sul volto della poeta e dall'altro invece dalle sue scritture e dai suoi lavori visivi. Parliamo anche della protagonista, cioè Patrizia Vicinelli. Facciamo un identikit di questa autrice. È un'autrice poliedrica, è davvero difficile riassumere la sua opera ma anche la sua vita in poche parole. È un'artista che per noi è importantissima perché noi siamo un collettivo che si occupa, diciamo spesso, di tutta quella poesia che non sta nei libri. Ecco, Patrizia nei libri ci sta, tanto che appunto presenteremo anche insieme a Fabio Orecchini, che ha curato la nuova edizione della sua opera completa per Argo Libri, questa nuova opera che si chiama La notte e il giorno. Però l'opera di Patrizia stava in tante altre forme, stava appunto nella poesia visiva, stava nella voce anche e soprattutto. Ed è per questo che nella voce e nell'opera visiva la riportiamo, per cercare di fare un lavoro che riporti in vita davvero la figura per come noi la intendiamo, la percepiamo e la vogliamo omaggiare. Wide, above when the gates swing wide on the other side, just beyond the sunset sea, there'll be room to spare as we enter there, room for you and room for me, for the gates are lei è una a tutti i tempi, è Carla Kjellstedt per la Zadig Record, 2 Foot Yard, il titolo di questo lavoro, sempre per la Zadig. Scrittrice, compositrice, l'ho voluta come colonna sonora per l'autrice Patrizia Vicinelli, ringraziando Eugenia Galli del collettivo Zoo Palco, di cui parleremo al termine di questo secondo segmento di dialogo, ricordando che l'incontro è domenica 21 luglio alle ore 21 all'interno della rassegna San Francesco Estate. A tale proposito andiamo anche sul palcoscenico di San Francesco Estate. Una biografia, una narrazione eterogenea come espressione artistica che appunto tra l'altro si addice la formula radiodramma e anche un aspetto molto contemporaneo anche nel racconto. Chi ci sarà sul palcoscenico, Eugenia? Allora, nella performance ci sarà appunto San Giorgio Cibernetico, come dicevo, Matteo Zoppi, Michael Nannini con l'aiuto fuori dal palco di Martina Stella. Prima però della performance avremo un talk che sarà condotto da Gabriele Stera, che è un poeta e studioso triestino di base a Parigi, che intervisterà appunto Patrizia e sulle opere che intorno a lei si stanno muovendo in questi anni, Fabio Recchini, curatore appunto di questa nuova edizione per Argolibri, Martina Stella, che ha realizzato il font di cui parlavo prima, e anche il gruppo RMN, che è una compagnia teatrale di base a Bologna, che sta lavorando su un nuovo spettacolo chiamato Costellazione Vicinelli, che è stato di recente anche in finale a Forever Young alla Corte Ospitale e che ripercorre un po' più che la sua opera, in questo caso la sua biografia, una biografia tormentata e segnata da varie peripezie, ecco. E tu, Eugenia, di cosa ti occupi? Allora, io sono una delle socie fondatrici del collettivo Zoo Palco, quindi mi sono occupata in questo caso di tutti gli aspetti più organizzativi e di comunicazione. In realtà, segretamente, sono anch'io una poeta. Ok, beh, devi esserne assolutamente fiera. E io ti ringrazio di questa nostra conversazione per anticipare l'incontro domenica 21 luglio alle ore 21, collettivo Zoo Palco, vocifera Patrizia Vicinelli. Grazie a Eugenia Galli, appunto, come abbiamo portato in frequenza sui 103.1 per la rubrica In Scena, con la curatela di ERT, l'estate a Bologna, Piazza San Francesco. Noi ci troveremo appunto all'interno di questa kermesse e per adesso ti auguro una buona giornata. Grazie. Grazie mille, buona giornata anche a te. weekend per tutta la durata di San Francesco Estate da protagonista a uno spettacolo per domenica 21 luglio, collettivo Zoo Palco, vocifera Patrizia Vicinelli. Abbiamo ascoltato l'approfondimento con Eugenia Galli. E per quanto riguarda, dicevo, a passo di gambero per la presentazione del weekend, allora sabato Bonoir procede con la rassegna I mostri del Circeo, è il titolo di Bonoir, rassegna nella rassegna in questo caso. Nel settembre del 1975 due ragazze sono adescate da tre giovani della Roma Bene, è il prologo di uno dei fatti di cronaca nera più terribili del nostro paese, che lasciò tracce indelebili nella vita dell'unica sopravvissuta, mentre gli autori del massacro cercarono di sottrarsi alla giustizia. Intervengono Roberto Colasanti, Andrea Capizzone, Massimo Lugli, il reading è di Ermelinda Nasuto. Bonoir analizza con protagonisti direttamente coinvolti tutto ciò che può essere una realtà di cronaca nera, riportandola con letture e testimonianze per la rassegna nella rassegna da Piazza San Francesco per quanto riguarda l'edizione di Bonoir. Questa sera invece musica, Paola Turci, Gino Castaldo, Il tempo dei giganti, 1979-1981, tre anni magici della musica italiana. Tutti gli appuntamenti sono alle ore 21, eh? Il triennio d'oro della musica italiana, cantato e raccontato da Paola Turci e Gino Castaldi, dall'Abbattiato De Andrea Battisti e tante altre canzoni, ricordi, riflessioni in un avvincente storytelling tra nostalgia ed emozioni. Parole e musica con i protagonisti Paola Turci e Gino Castaldo. Alle 8 e 50 minuti siamo arrivati alla planata del venerdì, forse è la prima volta nella stagione 2023-2024 che mi posso dedicare a qualche minuto di planata, ben venga. Anticipiamo quindi il weekend, anche se a breve ci sarà la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, poi la conferenza stampa di presentazione al Museo della Musica del Festival Snodi, quindi insomma direi proprio che per il lunedì, dopo il weekend, i magazine di Radio Città Fujiko avranno approfondimento oltre che notizie tratte dai principali quotidiani, dagli inserti allegati ai principali quotidiani in una rassegna stampa culturale per l'inizio della settimana prossima, l'ultima intera del mese di luglio. Mama, I know what it takes to make it right for you. It's the way I feel. voglio apparire più antipatico di quello che già sono, ma scusate, io farò la danza del sole perché per il weekend mi auguro ovviamente che la stagione proceda in questo modo. Un weekend giustamente per riposarsi un attimo e una settimana avventura carica di impegni, sempre con il Breakfast Club piacevolmente impegnati in ambito culturale, in diffusione di notizie, tanta musica per voi super mattiniere e super mattinieri. Intanto però giustamente una scottata di tonno con un buon prosecco gelato e i piedi nella sabbia nella splendida Polinesia Veneta, me lo volete concedere? Dai! Così venerdì sono ancora più riposato, no? E ovviamente auguro anche a voi uno splendido weekend e poi del resto abbiamo l'ultima settimana e ancora qualche giorno per la stagione 2023-2024 con il Breakfast Club. Dal vostro William Piana, un buon ascolto sulle nostre frequenze, una buona giornata e una buona vigilia di weekend. Servo vostro William Piana, è il momento di congedarsi e mi raccomando l'ascolto della rassegna stampa dalle 9.30. Prima però liberi dentro sui 103.1. Un buon venerdì, ciao a tutte, ciao a tutti, un caloroso abbraccio da William Piana, ciao! Side of me today, and I hope it will stay that way. Your music turns me on, and I hope you will carry on with your rhythms and your song, bringing love. Song.